Alcune volte tutto il brano biblico ci parla. Altre volte a me piace andare a cercare la pagliuzza d'oro, la perla che c'è dentro in un brano grande. Questa mattina, ascoltando la prima lettura, l'Esodo capitolo 13, ero colpito da questo passaggio. Quando tuo figlio un domani ti chiederà: ma cosa significa questo gesto che tu fai, cioè l'offerta del primogenito a Dio? Tu gli risponderai: così, così, così, così. E riflettevo che ancora oggi dobbiamo fare in questo modo, se no la fede non si trasmette. Troppe volte noi deleghiamo alla scuola, alla parrocchia, all'allenatore del calcio, degli sport, l'educazione dei nostri figli, alla stessa scuola cattolica. Non è corretto questo. Noi dobbiamo farci aiutare anche da loro, ma la prima educazione spetta ai genitori e spetta a coloro che sono alleati dei genitori, i nonni. Se il tuo nipotino non ti viene mai dato in custodia, caro nonno, cara nonna, devi stare attento a parlare, perché susciteresti delle reazioni. Perché chi non te lo affida vuol dire che è geloso di questa creatura. Ma se il papà o la mamma di questa creatura te l'affidano, anzi ce l'hai sempre lì a casa tua, vuol dire che loro ti ritengono un alleato. E allora tu dovresti veramente fare la parte anche dei genitori finché i bambini te lo permettono. E troverai che un bambino, una bambina ti faranno mille domande. Nonno? Nonnino, ha provato a sentire una bambina proprio così. Nonnino, ste bambine sono proprio seducenti anche da piccoline, eh? Nonna, perché? Perché? Perché? Perché? Noi non dobbiamo mai rifiutare di trovare il tempo di spiegarlo. Attenzione, finché loro stanno attenti, perché poi magari l'attenzione del bambino dura 20 secondi e se tu vuoi continuare a dare ancora qualcosa, quello comincia a giocare perché non gli interessa più niente, il bambino esaurisce. Però com'è importante spiegare tutto, da come si fa una cosa in casa, a come si va in chiesa, a perché è importantissimo. Vi dico che è un insegnamento biblico questo, e noi dobbiamo assumerlo noi. Problema, magari state pensando anche voi, che poi il bambino comincia ad arrivare a una certa età e quando poi arriva addirittura alla maggiore età diventa insofferente delle cose che tu dovrai dire. E allora ti suggerisco di non dirle più a lui, ma di dirle a Gesù. C'è una frase, un motto semplicissimo ma bellissimo. Quando non puoi entrare in un cuore, prega, entrerà la tua preghiera. E noi non la vogliamo capire. E noi assediamo e noi stanchiamo anche i nostri nipoti con tante osservazioni che a loro non interessano più. E con ciò perdiamo i punti che avevamo in classifica quando li abbiamo accumulati da piccoli. Non dobbiamo insistere, amici, e non dobbiamo dire mangia, bevi, se non han fame, se non han sete. Ma a Dio dobbiamo parlare dei nostri nipoti. Io lo so che una nonna, un nonno hanno a cuore tantissimo la salute dei nipoti, è una cosa bella. hanno a cuore la scuola, hanno a cuore la riuscita, gli studi, gioiscono per una laurea del nipote più che se fosse proprio figlio. Questo sta bene, ma bisogna ricordarsi di pregare il Signore per la loro fede, perché tutto è bello, ma tutto passa. Che resta è solamente Dio. E allora vi suggerisco, quando i vostri nipoti o i vostri figli da grandi non vi chiederanno più niente, astenetevi dal dare suggerimenti. Non vogliate assillarli, vi rendereste nemici. Parlate al Signore. Andate a visitare il Signore non solo nella messa quotidiana, ma anche nella visita al Santissimo Sacramento. Tante volte le nostre chiese non sono lontane dalle nostre case. Quando non puoi entrare in un cuore, prega, entrerà la tua preghiera.